L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. Benvenuti a tutti e a tutte a questa nuova puntata di Darwin. Ciao Fede. Ciao Chiara, e oggi parliamo di pannolini. Federico, sai quanti pannolini consumiamo noi? Nel mondo in un anno vengono usati 30 milioni di tonnellate, e in questa stima ovviamente sono compresi pannolini, assorbenti femminili, ma anche pannoloni per la terza età. Ecco allora che la ricerca sta facendo molto per trovare una soluzione, soprattutto di riciclo, no? Di questi materiali. In Italia in particolare la Fater, che è una multinazionale che commercializza tutti i grandi marchi dei prodotti intimi e assorbenti per la cura della persona, tra cui appunto Pampers e Liners, per citarne solo due. Questa attività di ricerca costituisce la base per un ulteriore sviluppo che vedrà la realizzazione di un impianto pilota. E qui con noi Marcello Somma, che è Global Business Development Director di Fater Group. Intanto benvenuto Somma. Grazie, un saluto a tutti. Somma, i dati che abbiamo citato sono confermati? Cioè davvero consumiamo decine di milioni di tonnellate di pannolini, pannoloni, pannolotti? Beh sì, in Italia sono circa 900.000 tonnellate all'anno. Noi abbiamo trovato una tecnologia e un sistema che abbiamo sviluppato da scala laboratorio per poi portare a scala pilota e infine a scala industriale, prima al mondo in provincia di Treviso. Ecco, adesso infatti descriviamo proprio questo progetto. Al momento, diciamo, nel resto di Italia, molti ascoltatori lo sapranno, appunto vengono in questo momento gettati nel bidone dell'indifferenziato, e poi appunto lo smaltimento viene in inceneritore, quindi di fatto non vengono riciclati. Invece voi state guardando ad un nuovo futuro di questi materiali, e in provincia di Treviso avete proprio lavorato su questo. Sì, è attivo oramai da tempo in provincia di Treviso il primo impianto su scala industriale al mondo, che ci consente di recuperare e di dare un futuro come materia prima seconda a quelli che erano pannolini e pannoloni usati della provincia di Treviso, in partnership con il gestore dei rifiuti della provincia di Treviso, che si chiama Contarina. La tecnologia, come dicevo, è tutta italiana, consente di recuperare da quello che sembrerebbe un rifiuto senza valore tre materie prime seconde: la cellulosa, la plastica e il polimero superassorbente. Riesci a descriverci sommariamente com'è che avviene questo processo di separazione e di estrazione di materiali certo pregiati come plastica e cellulosa? Certo, noi siamo andati un po' a quelli che erano gli albori della civiltà industriale, della rivoluzione industriale, e abbiamo recuperato l'uso delle autoclavi rotanti, che sono un po', come dire, dei sistemi di lavaggio a secco che permettono innanzitutto di sterilizzare il rifiuto usato, e poi di smembrarlo e di separarlo in maniera meccanica, senza alcuna combustione, semplicemente quindi con l'uso di sistemi meccanici, la cellulosa dalla plastica, dal polimero superassorbente. Quindi in generale noi usiamo vapore, temperatura, pressione e sistemi meccanici. Detto così, insomma, sembra abbastanza semplice, e quindi possiamo capire perché non viene fatto in tutto il resto d'Italia e forse del mondo? Noi ci stiamo muovendo, adesso il primo impianto è partito. Come a volte accade nella storia della tecnologia, la tecnologia è andata più veloce dei processi normativi, per cui l'impianto di Treviso ha dovuto aspettare che diventasse legge il cosiddetto decreto End of Waste, che consente legalmente di considerare come materie prime seconde i prodotti del nostro impianto di riciclo e non più come rifiuti, quindi consente ad essi di essere commercializzati, consente ai clienti di acquistarli come materia e non come rifiuto. E quello che stiamo facendo è muoverci sul territorio nazionale e anche internazionale, perché vogliamo portare questa esperienza anche all'estero, per espandere l'esperienza di Treviso. Le quantità che si riescono ad estrarre sono significative, anche se nel contesto dell'economia circolare più riusciamo a recuperare da tutte le parti e meglio è. Certamente sì, noi riusciamo a recuperare tutto quello che era il pannolino secco, tutto quello che è il solido, diciamo, lo riusciamo a recuperare attraverso il nostro processo. Il contributo umano, me lo lasciano chiamare così, viene lavato via e va a finire nelle acque fognarie. Ma con uno dei nostri progetti di ricerca, che si chiama Embraced, noi andiamo anche verso la direzione di riqualificare anche le acque di scarico. Questa attività di ricerca si sta ulteriormente sviluppando, lo scenario si apre e avete anche ricevuto un finanziamento europeo di un bando Horizon 2020 per lo sviluppo di un impianto ancora più grande, quindi un impianto pilota in Olanda. Ecco, se ci racconta anche di questo. Sì, intendiamo andare avanti e sviluppare soprattutto sempre materie prime e seconde a più alto valore aggiunto, perché più alto il valore economico delle materie prime e seconde, più facile sarà fermare questa filiera un po' dappertutto in Italia e all'estero. Come lei spiegava, il progetto Embrace riguarda un impianto dimostrativo che sarà in Olanda, lanciato nel 2021, quindi l'anno prossimo, e che consentirà di recuperare dalla cellulosa biostimolanti per l'agricoltura e bioplastiche. Grazie, allora, insomma, davvero buonissimo lavoro e ci risentiamo quando l'impianto pilota sarà pronto. Ci contiamo, grazie. Ok, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori sul sito di Radio 24, www.radio24.it, per riascoltare anche tutte le scorse puntate. Ciao a tutti! Ciao! Da Ravenna, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.